Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Iowa, 1925. Il caso Jane Doe, storia di un corpo senza nome. Nel 1925 l'Iowa era un unico enorme campo di grano. E anche se l'oceano era lontanissimo, le spighe si muovevano e si agitavano come il mare. La trovarono in un campo vicino a Carlisle, sotto un pagliaio, con il corpo parzialmente bruciato. Giorni prima, un contadino di passaggio aveva visto un uomo che guidava via da lì come se avesse avuto il diavolo alle calcagna. E in quell'istante il pagliaio era scoppiato in fiamme. Domenica 9 agosto era una giornata d'estate senza una nuvola in cielo. Earl Leverick e Harlan Kane avevano visto qualcosa sotto la cenere mentre stavano guidando. Erano scesi dalla macchina e lei era lì, come se li aspettasse. Le fiamme l'avevano consumata. I due si precipitarono in città. Dovevano trovare un medico legale o un poliziotto, qualcuno che sapesse quello che bisognava fare. De Ford, il medico legale della Warren County, era anche il farmacista locale e confermò quello che sapevano già. Il corpo apparteneva a una giovane donna. C'erano impronte nell'erba dove era stata trascinata dalla strada. De Ford trovò un pacchetto con dei panini, una pinta di whisky e una bottiglia mezza piena di gazzosa allo zenzero. «È stata una festicciola finita male», disse. E così fu che cominciò la vicenda. Queste sono le poche cose che scoprirono di lei. Aveva tra i 20 e i 25 anni, con lunghi capelli rossi, e la sua morte era stata brutale. Il cranio era stato fratturato in 4 punti da un oggetto contundente. L'assassino non aveva voluto ucciderla, aveva voluto distruggerla. Le diedero il nome che venne assegnato a tutti i cadaveri di donne sconosciute, Jane Doe. I suoi lineamenti, dissero, dovevano essere delicati. Presero nota della spilla con la farfalla e delle perle di vetro e aspettarono, giorno dopo giorno, la telefonata di una famiglia che aveva perso una figlia, una moglie, una sorella nelle contee vicine. I cittadini di Carlisle non parlavano d'altro e chi poteva andò al campo dove avevano trovato il cadavere per rimirare il terriccio scuro, asciutto e friabile. Eppure non ci furono telefonate e il suo nome rimase Jane Doe. Il medico legale pose alcune delle sue ossa, una ciocca di capelli e un frammento di tessuto del vestito in una teca di vetro nella farmacia, insieme ai gioielli che indossava la ragazza. In tutto 40.000 persone vennero a visitare il campo e la farmacia, come se fossero attrazioni turistiche. Vennero a piedi e in macchina e passarono la giornata setacciando il campo e cercando indizi sulla terra brulla, con i bambini che si rincorrevano e gli adulti che parlavano sottovoce della ragazza coi capelli rossi, della sua vita misteriosa e della sua morte terribile. Le ossa e i gioielli vennero esposti di nuovo qualche anno dopo, durante la festa cittadina, ma quella fu l'ultima volta in cui furono visti. La scatola dove erano stati riposti andò persa o dimenticata o lasciata in qualche posto, come a volte succede alle scatole. Vedi, ero io la ragazza con i capelli rossi e ho passeggiato fra i visitatori del campo di grano. Ho ascoltato le voci e la musica che vagava dolce e quieta dalle radio delle macchine con le portiere aperte. Ho visto gli oggetti nella teca, la spilla di mia madre, le perle di vetro che mi aveva prestato mia sorella e il vestito che avevo comprato coi miei risparmi e ho indossato una sola volta e per sempre. Avevo 22 anni e il 24 luglio 1925 viaggiavo in treno da Chicago a Des Moines. Lui era un bell'uomo e io avevo il mondo intero davanti a me. Mi disse che avremmo potuto continuare il viaggio con la sua macchina. Mi disse che sarebbe stato un piacere attraversare la campagna con i finestrini aperti, ascoltando le canzoni romantiche. Ogni cosa col tempo svanisce. Il suo nome e il suo volto, anche il momento in cui ho notato il sasso nella sua mano. E adesso, dopo anni e anni, non potrei più dirti il mio nome, neanche se volessi. Penso che il mio assassino abbia continuato con altre quello che aveva cominciato con me, in queste pianure senza fine, negli angoli di deserto fra le città, ma prima o poi qualcuno lo ha visto, ha capito e lo ha fermato per sempre. E dovunque lui sia, non ha questa collina dorata e la brezza che sospira all'alba. Ti ho raccontato questa storia perché siamo arrivati alla fine del giorno e mentre ogni ricordo svanisce, io mi stendo sull'erba e con me rimane solo il tepore della terra e la luce delle stelle. Questo campo di grano è il mio oceano e il mio viaggio mi porterà lontano.